Per parlare di Ipazia, di Alessandria e della sua storia, bisogna prima raccogliersi un momento e chiedere di esserne degne. Nel 2009 uscì il bel film di produzione spagnola Agorà. Protagonista del film era la scienziata alessandrina Ipazia, o meglio la sua distruzione fisica e storica da parte del sistema patriarcale. Il film uscì in Italia un anno dopo. E in seguito a polemiche innescate da chi riteneva che nel paese che da sempre ospita il potere papale non si volesse dare visibilità alla ignominia raccontata nel film. L'anno dopo l'uscita in Italia fu pubblicato un libro su Ipazia che insisteva molto sulla volontà di fare chiarezza riguardo una figura che avrebbe suscitato leggende e ispirato poeti. Ma ascoltandone la presentazione rimane come la sensazione che si sia voluto ridimensionare un omicidio rendendolo storicamente giustificabile. Anche per un altro film scomodo, La Papessa, una produzione tedesca sempre del 2009, accade qualcosa di simile. Poco dopo l'uscita del film fu pubblicato un libro che riportava in copertina la foto della papessa del film, ma all'interno sosteneva esserci state moltissime papesse, tra virgolette, e metteva le amanti dei papi allo stesso livello di donne del calibro di Matilde di Canossa e Maifreda da Pirovano. Ma c'è un altro libro su Ipazia, uscito molti anni prima del film, ed è quello di cui la scuola delle donne, che è sì dalla parte delle donne ma non in modo miope, propone la lettura. Si tratta di Ipazia, vita e sogni di una scienziata del IV secolo, di Adriano Petta e Antonino Colavito, uscito in prima edizione nel 2004 e ripubblicato da La Lepre nel 2009, anno di uscita del film Agorà. La Scuola delle Donne ritiene questo lavoro più vicino alla filosofia della scuola, ossia rendere giustizia e visibilità alla grandezza femminile a dispetto della censura del sistema patriarcale. Serenella Bischi, in un articolo per il sito della Libera Università delle Donne, sostiene che, nonostante in molti abbiano scritto di lei, Ipazia non è divenuta mai un personaggio noto, accessibile a tutti, familiare alla coscienza contemporanea. Non c'è da stupirsi, è stata cancellata dal palcoscenico della vita e della storia con una tale ferocia e accanita determinazione, scrive Serenella Bischi, che di lei non è rimasta quasi traccia negli annali ufficiali della scienza, della filosofia e della storia tout court. Per questo, continua l'autrice, farla rivivere è ogni volta un atto di giustizia e di amore. Ciò che con termine vago si definisce questione femminile, in questo caso mi sembra di poterlo meglio definire come sistematico stupro dell'identità femminile, perpetrato nella storia, sostenuto e facilitato da tutte le autorevoli voci di una cultura strutturata secondo le esigenze di una visione di un potere maschili. Ipazia di Alessandria fu filosofa, astronoma, matematica, medica, musicologa e insegnante nell'Alessandria d'Egitto del IV secolo d.C. Fu una figura illustre, di donna colta e carismatica, ascoltata, influente e per questo assolutamente inaccettabile dal potere cristiano emergente, il quale, basandosi sulle istruzioni di Paolo di Tarso, sosteneva che le donne dovessero tacere, essere sottomesse agli uomini e non potessero essere loro insegnanti. Il vescovo di Alessandria, Cirillo, oggi santo della Chiesa Cattolica, ordinò l'assassinio della scienziata, come sappiamo. Ma la versione di Adriano Petta, che la Scuola delle Donne propone, sebbene scritta da un uomo, mette in rilievo un dettaglio agghiacciante di una importanza strategica. Ipazia non fu solo trucidata, come riporta la storia ufficiale patriarcale. Fu squartata a partire dalla vulva con una conchiglia. E questo trasforma l'omicidio in femminicidio. E se si pensa che la conchiglia è simbolo della sacra vulva, si ha il sospetto che un atto del genere sia stato un femminicidio rituale, pensato per ingabbiare l'energia femminile in modo che non potesse più liberarsi. E Ipazia non è stata l'unica sacrificata con questo scopo. Tra le centinaia di fonti storiche e letterarie utilizzate per scrivere il romanzo, vi sono opere di Agostino, Ambrogio, Cirillo e Giovanni Crisostomo, i quattro pilastri portanti della Chiesa, tutti santi che vissero all'epoca del femminicidio e ne furono direttamente o indirettamente responsabili. Inoltre, importantissime le lettere che Sinesio, discepolo di Ipazia e vescovo di Tolemaide, inviò alla sua maestra, e l'enciclopedia bizantina Suda. Il libro, di cui Margherita Hack scrisse la prefazione nel 2005, porta una dedica ufficiale, tra le altre, a Henrietta Swan Leavitt, astronoma statunitense che nell'Ottocento mise in relazione le dimensioni delle stelle con la loro luminosità, rendendo così possibile misurare le distanze tra le galassie, mentre all'epoca si riteneva che l'universo fosse limitato alla Via Lattea. E a Vera Rubin, ignorata e bistrattata dalla comunità scientifica maschile perché è donna, che all'inizio del Novecento si rese conto che mancava all'appello il 90% della massa della Via Lattea, scoprendo così la materia oscura. Cito testualmente dalla presentazione scritta dallo stesso Adriano Petta, il quale dichiara senza remore di avere presente la lezione delle grandi studiose contemporanee, tra cui Maria Gimbutas e Anne Bering: Ipazia era l'erede della scuola alessandrina, la più importante comunità scientifica della storia, madre della scienza sperimentale, studiò e realizzò l'astrolabio, l'idroscopio e l'aerometro. Su Ipazia e sull'intera umanità, scrive ancora Adriano Petta, si abbatté la più grossa delle sventure quando ascese al potere la Chiesa Cattolica, che stipulò il patto di sangue con l'impero romano agonizzante. Questo patto, oltre alla soppressione del paganesimo, prevedeva la cancellazione delle biblioteche, della scienza e di scienziate e scienziati, l'annullamento del libero pensiero e della ricerca. Alla donna doveva essere impedito l'accesso alla religione, alla scuola, all'arte, alla scienza. In poche decine di anni il piano venne quasi interamente realizzato, ma Ambrogio, Giovanni Crisostomo, Agostino e Cirillo, i giganti del nascente impero della Chiesa, trovarono sulla loro strada lastricata di sangue un ultimo impedimento. Una giovane bellissima a capo della scuola alessandrina, una scienziata con una dirittura morale impossibile da piegare, la quale, al termine di una giornata di studio e di ricerca, si gettava sulle spalle il mantello dei filosofi e se ne andava in giro per Alessandria a spiegare alla gente, con ingegno oratorio e straordinaria saggezza, cosa volesse dire libertà di pensiero, uso della ragione. E Cirillo, vescovo e patriarca di Alessandria, ordì il martirio di Ipazia. Questo delitto segnò la fine del paganesimo, il tramonto della scienza e della dignità stessa della donna. In quel 415 d.C. a nulla valse la voce isolata del prefetto augustale Oreste, che cercò inutilmente di difendere e di salvare la scienziata. Quando Oreste si recò a rendere omaggio a Ipazia, scrive ancora Adriano Petta, da lei apprese che non poteva definirsi realmente pagana perché qualunque religione, qualunque dogma, è un freno alla libera ricerca e può rappresentare una gabbia che non permette di indagare liberamente sulle origini della vita e sul destino umano. Ipazia gli raccontò che dopo l'incendio della biblioteca il prefetto augustale Evagrio le aveva proposto di convertirsi al cristianesimo in cambio di maggiori sovvenzioni per la sua scuola e che lei aveva rifiutato dicendo: «Se mi faccio comprare non sono più libera e non potrò più studiare. È così che funziona una mente libera». L'incendio della biblioteca di Alessandria, racconta Adriano Petta in una intervista, fu frutto di un piano premeditato. Il vescovo Ambrogio di Milano, quando fu emanato l'editto che riconosceva solo la religione cristiana come unica professabile, ordinò che fossero distrutti tutti i luoghi di culto, ma prima ancora le biblioteche, innanzitutto quella di Alessandria, che conservava la più vasta raccolta di volumi del mondo ed era aperta al popolo, non solo agli studiosi. Il vescovo Cirillo, dopo averla diffamata pubblicamente e tacciata di stregoneria perché si dedicava alla musica, ai numeri e all'astronomia, ordinò al suo fedelissimo esercito di parabolani, un'associazione di monaci analfabeti e violenti, di uccidere Ipazia. Essi la trascinarono nella cattedrale cristiana del Cesareo, prosegue Petta, le cavarono gli occhi che gettarono sull'altare, la denudarono e la fecero letteralmente a pezzi con dei gusci di conchiglia. Successivamente chiusero i resti in sacchi che trascinarono fino al Cinerone, dove li incendiarono urlando Immondizia! Epiteto attribuito alla donna da Agostino di Ippona, ancora oggi considerato un grande filosofo e incluso nei programmi scolastici. Se fosse stata uomo sarebbe stata semplicemente uccisa, ma Ipazia era una donna e portava sulle spalle il peso di un platonismo che reputava le donne esseri inferiori per natura e di una chiesa cattolica che impresse sulla loro pelle l'indelebile marchio di causa del peccato originale. Doveva essere pertanto fatta a pezzi e all'interno di una cattedrale cristiana, affinché la sua morte fosse una vera e propria rappresentazione simbolica di qualcos'altro. All'inizio di questo terzo millennio, l'UNESCO, dietro richiesta di 190 stati membri, ha creato un progetto internazionale che intende favorire piani scientifici al femminile nati dall'unione delle donne di tutte le nazionalità, perché se si vuole che la scienza sia davvero al servizio dei reali bisogni dell'umanità, è necessaria l'urgente realizzazione di un migliore equilibrio nella partecipazione di entrambi i sessi alla scienza e al suo progresso. Attualmente, nell'ambito della scienza, specifica ancora Adriano Petta, solo il 5% delle donne è ai vertici. L'UNESCO ha chiamato questo progetto internazionale Ipazia. Il libro che la Scuola delle Donne propone è uscito nell'anno internazionale dell'astronomia, il 2009. L'autore lo ha dedicato a tutte le donne che, lottando contro un ambiente misogino che le ha sempre avversate e ignorate, sono testardamente riuscite a lasciare comunque un'impronta. Da Devana, buon ascolto.